Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi? Vediamo se lo capite ascoltando questa canzone. Non ho capito, io devo dirvi la verità, se quest'oggi parliamo di musica dance anni 90, direi, se parliamo in concreto di Corona, The Rhythm of the Night. Banzo, buon pomeriggio innanzitutto, più ergonomico che mai, già lo so, dici tu per favore, svela l'arcano ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Quest'oggi veniamo a voi con un monografico su Fabrizio Corona, no, non è vero. In questo caso la canzone ovviamente non è indicativa dell'argomento, ma forse capirete qualcosa di più se vi dico che The Rhythm of the Night di Corona fu in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia per tutto il mese di febbraio e tutto il mese di marzo del 1994. Il brano è uscito l'anno prima. Quindi cosa era successo a fine gennaio 94 e cosa era successo a fine marzo 1994? Ecco, Corona praticamente fu la colonna sonora di questo periodo. Sì, hai proprio ragione, sì, perché quest'oggi cominciamo una serie di puntate di Zibaldone che ci accompagneranno nei prossimi mesi, intitolate 30 anni fa. Ecco, e quest'oggi in concreto di che cosa parliamo? Beh, vediamo se lo capite ascoltando questo frammento audio. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. Io mi ricordo da ragazzo, quando ero bambino, il mio babbo tutte le sere, verso le 9 di sera, si alzava, siccome non avevamo il bagno in casa, prendeva un foglio di carta gialla, quello che davano ai negozi per incartare la roba, se lo metteva sotto il braccio e diceva: io scendo in campo, e se ne andava. A me sta frase, ora quando l'ho risentita, quando l'abbiamo sentito Berlusconi a Reti Unificate dire italiani io scendo in campo, il mio papà ha fatto due occhi, ma come, con tutti i soldi che c'ha non si è neanche fatto il bagno in casa quello sporcaccio. Vabbè, credo che non ci sia bisogno di spiegarvi di cosa parleremo, perché proprio quest'oggi, 26 gennaio, ricorrono, Banzo, i 30 anni del famoso videomessaggio di Silvio Berlusconi che arrivò in tutte le case degli italiani. Avete sentito poi, oltre all'incipit di quella famosa videocassetta mandata da Berlusconi a tutte le reti televisive italiane, le sue, quelle pubbliche e anche altre all'epoca esistenti, poi ovviamente una gag di Roberto Benigni. Sì, una gag che ironizza sulla scelta di parole di Berlusconi, discesa in campo, che è diventata proverbiale, ovviamente. Cioè, Berlusconi non credo abbia usato parole sbagliate, però a Benigni causavano quell'innesco di ricordi, diciamo. Ed è bello riderne, perché forse nel 94 si poteva ancora ridere di questa cosa, invece 30 anni dopo ridiamo perché è meglio ridere che piangere, però insomma l'Italia è un paese profondamente diverso e i risultati dell'evo berlusconiano sono sotto gli occhi di tutti e credo che la maggioranza della popolazione italiana vada benissimo così, purtroppo. Assolutamente, anche perché ci ridiamo un po' sopra, o forse guardiamo anche con nostalgia quegli anni, perché insomma quello che è arrivato dopo è stato sicuramente peggiore, al di là di forse di qualche piccola fase della storia italiana. Insomma, si aprivano allora quel ventennio berlusconiano, insomma, che è durato come minimo fino alla caduta del governo Berlusconi del 2011, ma in realtà è continuato anche dopo e poi ha portato a una maggiore radicalizzazione della destra italiana, prima con Salvini e al giorno d'oggi, come ben sappiamo e di cui anche, insomma, sapete anche voi, ne abbiamo parlato spesso a Zibaldone, con il governo di estrema destra di Giorgia Meloni. Quest'oggi, Banzo, insomma, vogliamo un po' ripensare, ritornare a quel 26 gennaio del 1994, lo faremo con alcuni frammenti che vi faremo ascoltare, anche alcune canzoni che hanno a che fare con quel momento e quel periodo storico, ma poi con un ospite che ci accompagnerà nella puntata di Zibaldone di quest'oggi. È Rudy Ghedini, è giornalista e scrittore, ha un bellissimo e seguitissimo blog in cui parla di calcio, politica, musica e cinema. Ma tra l'altro anche Rudy Ghedini all'epoca, parliamo dei primi anni 90, era in politica con fine anni 80 il PC, poi il PDS come consigliere comunale a Bologna, un attento osservatore della realtà politica non solo bolognese ma anche italiana. Insomma, chi meglio di lui per leggere anche con gli occhi di chi segue il calcio un discorso che proprio al calcio era legato fin dal titolo, insomma, quello della discesa in campo per chi in quel momento era il presidente dello stellare Milan di prima Arrigo Sacchi e poi Fabio Capello. Banzo, andiamo ad ascoltarci, a proposito di frammenti, un altro frammento che ha a che fare con quel momento e soprattutto con le televisioni di Berlusconi. Vuoi introdurlo tu? Beh sì, ma all'insegna della nostalgia più feroce e ingiustificata, torniamo all'inizio del 1994 con alcuni spassionati consigli di figure importanti delle TV berlusconiane dell'epoca, riconoscerete le voci, che in modo del tutto casuale lasciano cadere il discorso sulle imminenti elezioni politiche del marzo 94. Ma lo sapete che domenica prossima si vota? Tempo vola, è una cosa incredibile. E tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha e mi dicono, ma Berlusconi promette tante cose, ma poi le farà? Beh, io vi devo dire, se devo giudicare dalle mie esperienze, beh, io devo dire che Berlusconi quello che promette fa. Il padre Sarno? Piane per Berlusconi, Forza Italia, tutto il coro, insomma quello là. Stalin tiene per Occhetto, ecco. E Satana, anche Satana tiene per Occhetto, ovviamente, scusate. Company. Io ho la fortuna, dopo 45 anni di votazioni, ho votato, di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Ah. Perché ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? È l'ex presidente. Cossiga? Ma come così? Che c'entra con l'ex presidente nostro della Fininvest? Ah. Ah, ha capito adesso? Berlusconi. Sì, ma mica sottovoce, Berlusconi, si capisce, Berlusconi, Forza Italia. Vabbè, dei ricordi lontani, Banzo, e soprattutto vergognosi, insomma, la propaganda sterminata da persone come Mike Bongiorno, Ambra Angiolini per i giovani in quel momento, no? E poi Vianello, no? A Pressing era questo frammento, fu veramente vergognoso sulle TV di proprietà di Berlusconi. E, insomma, c'è tanto da dire, lo faremo sicuramente anche insieme a Rudy Ghedini. Banzo, noi però adesso andiamo ad ascoltarci prima un brano che non è dell'epoca, in realtà è recente, ma il titolo è molto esplicativo, La Rai se la paghi Occhetto. Comunque Steven all'epoca Amber era minorenne, quindi molto ambiguo tutto ciò. Vabbè, venendo al brano La Rai se la paghi occhietto, è un brano dei Golpe che vi abbiamo già presentato a novembre nell'ultimo rapporto Italia, ci piacciono, li seguiamo, sono un gruppo torinese che si rifà molto all'immaginario della storia italiana e hanno pubblicato il 19 gennaio, con un tempismo che credo non sia casuale, un EP intitolato Seconda Repubblica, dal quale è tratta la canzone che vi facciamo sentire adesso, che ci permette anche di ricordare la figura di Achille Occhietto. E nel Facebook degli esordi, sempre all'insegna di Nostalgia Ingiustificata, una delle sue pagine più mitiche, Il Completo Marrone di Occhietto, perché forse ricorderete che nel mitico confronto televisivo del 94 fra Berlusconi e Occhietto, quando ancora si potevano fare i confronti, perché poi Berlusconi non li volle più fare, Occhietto indossava questo completo marrone pesantissimo che lo faceva sembrare una specie di carro armato umano, forse già anche in quel dettaglio un po' un presagio di come sarebbe andata a finire. Ecco. Ci andiamo ad ascoltare I Golpi, La Rai se la paghi Occhietto. Il primo governo della Seconda Repubblica. Oggi da lui una telefonata, io mi permetto di dire, da amico ad amico, fra lui che è stato il mio editore ed io che sono il direttore di una testata della sua informazione, e già si creava una separazione di fatto. Abbiamo in collegamento telefonico con noi l'ospite di questa puntata di Zibaldone. Lui è Rudy Ghedini, giornalista, scrittore. In realtà ha fatto tantissime cose ai tempi, negli anni Ottanta, giornalista all'Unità, anche consigliere comunale a Bologna per il PC e poi il PDS. Parliamo sempre degli anni, fine degli anni Ottanta, la prima metà degli anni Novanta. Ha collaborato con tantissime riviste in questi ultimi ormai più di 30 anni. È stato anche direttore editoriale di Zero in Condotta tra il 95 e il 2003, autore di molti libri, anche di due documentari, libri che menzioniamo, uno sicuramente uscito ormai 20 anni fa, Il Cavaliere a due punte per i tipi di Fratelli Frilli, e recentemente, parliamo del 2018, per Pagina 1, Rivincite, lo sport che scrive la storia. Tra l'altro è autore di un blog molto letto in cui si parla tantissimo di calcio, soprattutto di Inter, ma anche di cinema, fumetti, musica e politica. Rudy Ghedini, wordpress.com. Rudy, innanzitutto benvenuto a Zibaldone, un piacere averti con noi. Grazie per l'invito. Ascolta, oggi celebriamo, mettiamoci le virgolette, però insomma questo trentennale di un momento che ha cambiato senza ombra di dubbio la storia dell'Italia, il famoso videomessaggio di Silvio Berlusconi, il discorso che insomma definito dallo stesso Berlusconi della discesa in campo, ecco, con cui decise di entrare in politica e si presentò alle elezioni che si sarebbero tenute praticamente due mesi dopo la fine della Prima Repubblica, l'inizio di quella che è stata definita in ambienti giornalistici già allora la Seconda Repubblica. Ecco, cominciamo con una domanda: tu all'epoca eri attivo in politica a Bologna, lo ricordavo poc'anzi, scrivevi per la stampa, seguivi moltissimo la politica, i cambiamenti della società italiana, e quindi insomma cominciamo con una testimonianza. Ecco, qual era l'atmosfera che si respirava a sinistra tra la fine del 93 e quel gennaio del 94, alle porte di quelle elezioni politiche al termine più o meno di Tangentopoli, e dal tuo punto di vista come cambiò la situazione dopo il messaggio praticamente a reti unificate che fu mandato in onda quel 26 gennaio del 94? Beh, diciamo che Tangentopoli aveva travolto il sistema politico italiano, la cosiddetta Prima Repubblica era decapitata, interi gruppi dirigenti, partiti che dovettero sciogliersi, cambiare nome, cercare un altro approdo, perché la rotta che avevano sempre tenuto improvvisamente era scomparsa. E c'era un gigantesco vuoto politico del quale a sinistra qualcuno era convinto di poter approfittare quasi per inerzia. Delle forze politiche appunto della Prima Repubblica restava come elemento riconoscibile soltanto l'erede del Partito Comunista, perché nel 1994 tutto il resto era stato appunto travolto. E Berlusconi, che peraltro abbiamo poi scoperto dopo, lavorava a questa discesa in campo da almeno un anno e mezzo, da almeno dall'estate del 92, perché ci sono ormai libri, saggi, testimonianze dirette di tanti collaboratori che hanno cominciato a studiare l'opinione pubblica. Del resto Berlusconi era il massimo imprenditore privato della comunicazione e sapere cosa ne pensano gli italiani era per lui una necessità, anche solo per collocare nel palinsesto un programma anziché un altro, quindi una specie di abitudine già a studiare gli italiani, le loro mentalità, i loro comportamenti, le loro preferenze. Diciamo quindi un anno e mezzo di studio e poi un momento cruciale nel tardo autunno del 93, quando si tratta di decidere chi appoggiare nello scontro che stava per arrivare per il sindaco di Roma e per il sindaco di Napoli. E proprio a Bologna, anche a Casalecchio di Reno, dove, vicino dove abito, Berlusconi, inaugurando un suo supermarket, disse che avrebbe comunque appoggiato Gianfranco Fini, che all'epoca era il segretario della destra in Italia, contro Rutelli, che era il candidato sindaco del centro-sinistra. Questa discesa in campo quindi ha avuto dei segnali premonitori, e poi è avvenuto appunto 30 anni fa, il 26 gennaio 94. Ci tengo a sottolineare due aspetti che trovo molto istruttivi. Il primo è: Berlusconi spedì una videocassetta. Pensiamo un attimo, videocassetta, cioè un oggetto che non esiste più, che nessuno sarebbe in grado di riprodurre nella propria abitazione, visto che i lettori ormai hanno fatto diversi cambiamenti tecnologici e quel tipo di lettore che allora era in auge ora non c'è più. Secondo, la spedì a tutti i telegiornali e tutti i telegiornali scelsero di mandarla in onda, cosa che era evidentemente una scelta, perché appunto alcuni la mandarono in onda in modo integrale, le sue reti televisive non fecero altro, era assolutamente scontato che quegli 8 minuti e mezzo fossero riprodotti integralmente per non alterare nulla dell'attenta preparazione del messaggio, ma 2, 3, 4 minuti furono mandati da tutte le altre reti, che si prestarono quindi a fare da megafono a un'operazione politica inedita. Nessuno si era mai presentato alle elezioni in questo modo, che ottenne secondo me un successo superiore alle attese dello stesso Berlusconi nella forma in cui scelse appunto di comunicare la discesa in campo. Banzo, so che avevi una pregunta, come si dice in spagnolo, una domanda in cantiere. Ecco, lapsus. Allora, la mia domanda, proseguiamo da qui per spostare il discorso su un terreno più specificamente calcistico, per ricollegarci anche al tema del Cavaliere a due punte, il tuo libro del 2004, dove avevi affrontato la questione. Ecco, uno degli slogan che diciamo è più significativo riguardo al periodo della scesa in campo di Berlusconi era "Farò l'Italia come il Milan", che mi sembra apparisse nell'opuscolo "Una storia italiana". Ecco, il Milan poi una cinquantina di giorni dopo l'elezione del 94 vinse la Coppa dei Campioni con un risultato schiacciante che fu quasi una specie di conferma. Ecco, quindi la domanda è: che tipo di capitale simbolico rappresentò il Milan per Berlusconi? E poi, per arrivare un attimo più alla boutade, quanti milanisti votarono Berlusconi nel 1994? Ovviamente come sensazione, perché non abbiamo statistiche. Beh, Milan fu sicuramente il modo più efficace e immediato per dimostrare agli italiani che Berlusconi era un vincente. Berlusconi comprò il Milan, che era sostanzialmente una società fallita. Aveva fatto due volte la Serie B, come diceva l'avvocato Prisco, una volta gratis e una volta pagando. E nell'86 Berlusconi arriva e con pochi soldi raccoglie le spoglie di una società prestigiosa che aveva già vinto in Europa, che aveva già avuto una grande reputazione, ma che era crollata negli anni 80. Lui ha qui un'idea vincente, cioè l'idea che se si fosse dimostrato vincente sul piano calcistico, questo si sarebbe riverberato in qualunque altro campo, cosa che è molto diversa dall'essere un grande imprenditore delle costruzioni, dall'essere un grande imprenditore delle televisioni, dall'essere un grande imprenditore delle assicurazioni, che era già stato tutto questo e ha avuto successo in ognuno di questi ambiti, ma sono ambiti che non si trasferiscono immediatamente nella dimensione simbolica, nell'etichettare una figura come una figura che sa fare bene le cose. Berlusconi invece, attraverso il calcio, non è il primo, ma è sicuramente colui che rende questo tipo di atteggiamento sistematico, attraverso il calcio arriva a comunicare agli italiani che se si occupasse lui dell'Italia farebbe dell'Italia quello che ha fatto del Milan, cioè la porterebbe dalla polvere, in cui comprò appunto il Milan nell'86, a grandi successi. E puntualmente io potrei dire questa è la vera promessa mantenuta da Silvio Berlusconi. Chi come me politicamente è stato antitetico a Berlusconi gli ha rimproverato di non aver mantenuto quasi nessuna promessa. Purtroppo sul Milan invece ha avuto ragione lui, perché non c'è mai stato un Milan così straordinario, così vincente, così spettacolare, e non c'è mai stato anche un presidente che pretendesse di insegnare all'allenatore come doveva giocare a calcio, perché vi ricordate che Berlusconi gli piaceva dire che lui aveva fatto l'allenatore, gli piaceva dire che le sue squadre dovevano essere molto belle da vedere, che bisogna fare il bel giuoco, e aveva scelto Arrigo Sacchi, in questo veramente un'intuizione geniale, gli va riconosciuto, per costruire una squadra ex novo, perché del Milan che vince non fa parte nessuno del Milan che ha comprato lui. In 3 anni c'è una mutazione genetica del Milan, a forza di comprare 5, 6, 7 giocatori all'anno Berlusconi lo scaravolta, lo capovolge completamente e costruisce una squadra veramente leggendaria, in particolare per la difesa, che era la più forte difesa del mondo da molti molti anni a quella parte, e attorno alle vittorie calcistiche costruisce un'appartenenza. Allora, alla domanda qual è l'effetto sulle elezioni politiche, beh, lui spende un capitale di reputazione alle elezioni politiche del marzo del 94, che gli viene restituito con gli interessi, perché ovviamente è un trionfo che va oltre qualunque previsione, anche degli analisti che non si aspettavano un partito nuovo, il cui simbolo era stato presentato appunto 2 mesi prima, essere il primo partito italiano. Questo fu un colpo di scena autentico, nonostante, ripeto, ci fosse una voragine politica, uno spazio politico vuoto, perché Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Repubblicano, Partito Liberale, Partito Socialdemocratico erano implosi con Tangentopoli. Ma ecco che oltre al capitale elettorale che lui riscuote c'è l'altro aspetto, c'è l'appartenenza. Quanti milanisti di sinistra, è la mia domanda più che una risposta, si schierarono con Berlusconi alle elezioni del 94? Tanti, anche perché non aveva ancora deluso nessuno sul piano politico. Certo. Io conosco personalmente molti milanisti di sinistra, alcuni sono veramente amici di vecchia data, che si sono trovati in seguito in una dimensione schizofrenica, perché hanno visto Berlusconi all'opera, ma nel momento in cui Berlusconi scende in campo, molti gli credono. Gli credono perché oggettivamente ha fatto del Milan una squadra eccezionale, vincente, spettacolare, lo torno a dire, e la promessa di fare dell'Italia quello che ha fatto con il Milan viene almeno messa alla prova. Lui poi, sapete che cade rovinosamente dopo un primo anno di governo con la rottura con la Lega di Bossi, e da lì comincia un'altra storia, ma l'arrivo, l'irruzione di Berlusconi sulla scena politica fu fragoroso, spettacolare e molto molto incisivo. Questo è anche interessante, Rudy, perché in quel periodo c'erano stati anche in paesi, altri paesi europei, leader, diciamo presidenti di scuole di calcio che avevano tentato di entrare in politica, entrarono ma non col successo di Berlusconi. Penso in Spagna José María Ruiz Mateos, lì, presidente del Rayo Vallecano, l'Atletico Madrid Jesús Gil, e anche poi in Francia proprio in quegli anni Bernard Tapie. Ecco, però Berlusconi senza ombra di dubbio anche per l'importanza del Milan. E poi ricordavo quando dicevi no, e insomma il Berlusconi che faceva anche l'allenatore o pretendeva di esserlo stato e di esserlo ancora, quando presidente del Consiglio criticò Zoff, anzi non presidente del Consiglio, era leader dell'opposizione nel 2000 dopo i mondiali in Olanda, e fino a che Zoff si dimise. Sì, io penso che la discesa in campo di Berlusconi e la sovrapposizione sport-politica sia più sudamericano che europeo come fenomeno. Sì. Cioè l'Argentina innanzitutto è il paese nel quale carriere politiche folgoranti, compresa l'ultima di Milei, che è intervenuto per sostenere un candidato alle elezioni del Boca Juniors. Sì. Cioè una cosa che evidentemente è abbastanza incredibile, abbastanza populista, appunto, come le chiamiamo oggi questo tipo di avventure, no? Però in Sud America ripetutamente si è visto che un imprenditore riusciva, accaparrandosi una grande importante squadra di calcio che poi diventava vincente, riusciva a diventare così popolare che Collor de Meglio in Brasile, mi viene, esatto, in mente in questo momento, esatto, hanno avuto ruoli calcistici e che si sono poi riverberati nella sfera pubblica, nella sfera politica. Berlusconi però è apolitico, antipolitico, è fuori dalla politica. Lui avrà sempre, per tutti i suoi 30 anni in cui fa politica, perché sono sostanzialmente 30 gli anni in cui fa politica, l'atteggiamento di chi dice: ma io non sono un politico, io vengo da un altro mondo, non voglio apparire come un politico perché questo mi porta alla rovina, mi porta l'idea che gli italiani hanno dell'opportunista, di quello che pur di star lì farebbe qualunque cosa, farebbe salti mortali, mentre lui invece è l'imprenditore prestato alla politica. Questo tipo di atteggiamento è stato a sua volta molto lungimirante, perché anticipa anche quella critica che adesso viene chiamata populista, ma che nel momento in cui è stato in auge, secondo me, ha rivestito un ruolo molto importante, la critica che il Movimento 5 Stelle ha fatto alla durata del mandato politico di certi personaggi. Cioè Berlusconi era come che tutte le volte fosse la prima volta. Non potevi dire: ma è 20 anni che è lì, ma è 15 anni che è lì, è 25 anni che è lì, perché lui lavorava per farti credere che era la prima, la seconda volta che tornava. Del resto tutte le volte in cui aveva perso non era mai colpa sua, l'avevano sempre penetrato con qualche complotto. Questo tipo di atteggiamento è sempre molto piaciuto all'italiano medio, perché l'italiano medio nei confronti del politico di professione ha un atteggiamento diffidente, vi vede immediatamente, vi odora immediatamente l'opportunismo, le scelte tattiche. Berlusconi da questo punto di vista è riuscito meravigliosamente a non apparire un politico di professione, ma uno passato di lì per caso per salvare l'Italia, perché nella sostanza questo era il suo messaggio: se non ci penso io, chi salverà mai l'Italia? Andiamo ad ascoltarci un breve frammento musicale, non diciamo di che cosa si tratta, ma ovviamente riguarda il Milan ai tempi di Berlusconi e anche poi qualcosa d'altro. Sentitevelo qua, poi torniamo in onda insieme a Rudy Ghedini. alla sinistra? Alla sinistra c'è il presidente, tutto suo. Squadra, campo di calcio, l'erba, le porte, gli sponsor, i giocatori, i palloni, tutto suo. Lui al sabato dice, domani gioco io. E tutti, oh che bello, puttana Eva. Tutto suo. Gioca, si vede la partita da vicino, i gol da distanza ancora più ravvicinata. Gli piacciono? Se li fa ripetere. C'è un'azione che gli fai girare i coglioni, non gli passano la palla. Appena può prenderla, la prende. Basta, va la casa! Mio. C'è un avversario che gli piace durante il match. Lo compra durante la gara. Ma è legale, sai, come no? Entra un massaggiatore con la borsa di soldi, noi diventiamo in 12, gli altri in 10. E siamo invincibili, te! Oh, presidente! Oh, presidente, cavaliere, generoso per mestiere! Oh, cavaliere, presidente! Così tanto buono con la gente! Ma perché lei fa tutto questo per noi e noi come possiamo contraccambiare? Io lo so, non le basta lo squadrone, no, no, no! Non le basta neanche la fabbrica del carbone, no, no, no! Né l'impero del salmone, no, no, no! Oh, no, no, no, presidente! Lei affascina, ma comunque destinato, ma comunque indirizzato alla guida dello Stato! The money is a football, the balloon le coldane. The money is a football, the balloon le coldane. The money is a football, the balloon le coldane. The money is a football, the balloon le coldane. Sta sfilando l'invincibile armata, lo squadrone di calcio che tremare il mondo fa. Ovviamente questa era la sigla e l'inno del Milan, scusate, Milan Milan di Massimo Guantini e Tony Renis, po' di meno che, e poi invece avete sentito, avete riconosciuto la voce di Paolo Rossi, era un frammento di un monologo canzone intitolato Squadrone, proprio del 1993, ecco, fu scritto dopo l'estate, quindi in quel momento in cui insomma Berlusconi stava pensando, in realtà già lo sapeva, quando entrare in politica. Banzo, so che hai un'altra domanda in cantiere, che ha proprio a che fare con calcio e politica ancora una volta. Sì, esatto, quindi chiederò a Rudy, riprendiamo il discorso del Cavaliere a due punte che abbiamo già menzionato un paio di volte, è il momento di parlarne più in dettaglio, diciamo. Questo libro è uscito nel 2004, quindi quando si poteva già tracciare un bilancio abbastanza ragionevole dell'esperienza politica di Berlusconi, che all'epoca era decennale, diciamo. E in questo libro la tua tesi è che il l'ascito, anche se all'epoca era ancora in politica, più significativo di Berlusconi era la riduzione dell'elettore a tifoso. Quindi ti chiederei di descrivere meglio le chiavi di questa autentica mutazione antropologica. E poi, prima di lasciarti la parola, ti chiederei se, almeno per quanto riguarda l'Italia, si può trattare di una mutazione da addebitare al solo Berlusconi o se c'era anche qualcun altro che la stava proponendo, stava cercando di indirizzare le cose in quella direzione e Berlusconi, diciamo, fu il maggior interprete e lo spirito del tempo, ecco. Diciamo che la riduzione del cittadino a tifoso è una tendenza irrazionale. Cioè, noi siamo in una società nella quale ogni cittadino è bombardato da informazioni e in particolare nei paesi occidentali, nei quali un certo livello di benessere è stato raggiunto dai due terzi, dai tre quarti della popolazione, la maggioranza della popolazione appunto ha molta paura di perdere quello che ha. È prevalente l'elemento conservatore, il timore di perdere quello che ha, rispetto all'elemento di speranza nel futuro, potrei dire di soldi dell'avvenire, di investimento sulle generazioni successive. Berlusconi arriva in un'Italia che è segnata da un conflitto ideologico molto profondo tra i paesi occidentali, è il paese in cui c'è stato il Partito Comunista più forte, è il paese nel quale la spaccatura politica, diciamo, est-ovest è ancora così virulenta al punto che è l'anticomunismo uno degli elementi che costruiscono Forza Italia. E cosa fa Berlusconi? Fa un appello estremamente emotivo, estremamente irrazionale da questo punto di vista, all'elettorato, al cittadino, dicendo o con me o contro di me. costruisce una specie di bivio al quale il cittadino è chiamato a scegliere: o segue lui o è contro di lui, è il catalizzatore sostanzialmente di questo bivio. Riesce a essere una figura così divisiva e non ha nessun problema a essere divisivo. Questo è il punto. Oggi tanti personaggi politici, con pochissime eccezioni, tendono a essere in qualche modo bonari, cercano di essere pacificatori. La parola divisivo oggi è una bestemmia. Chiunque si ponga in un modo divisivo viene visto come uno che indebolisce il tessuto della nazione. Se uno pensa ai messaggi di Mattarella, per esempio, avverte che c'è una preoccupazione fortissima di divisione dell'Italia tra visioni antitetiche e incomunicanti. Berlusconi ha voluto che l'Italia fosse dominata da visioni antitetiche e incomunicanti. Ha voluto quindi che chi era con lui lo seguisse come leader, gli desse sostanzialmente delle forzature, lo difendesse nelle decine e decine di processi in cui è stato coinvolto, perché ricordiamoci che la parabola di Berlusconi in politica è attraversata da vicende giudiziarie di tutti i tipi, comprese quelle legate al calcio, perché anche nel calcio il Milan di Berlusconi viene condannato, i calciatori, soprattutto gli olandesi, vengono pagati in nero, patteggiano, ci sono varie vicende, il pagamento di Lentini, ma dico delle cose random, una dietro l'altra come mi vengono in mente. C'è nel bilancio del Milan di quegli anni molte cose che andrebbero analizzate. Del resto Berlusconi, per fare quel Milan, apri chiudo una parentesi, non si preoccupa di desertificare la concorrenza. Ci sono anni in cui c'è un giocatore capace, il Milan lo compra. Il Milan compra il pallone d'oro Papin per fargli fare la riserva. Il Milan compra il più forte giocatore italiano di quegli anni, Lentini, per fargli fare la riserva. Di Napoli non gioca mai, viene comprato a un prezzo spaventoso e non viene neanche messo in campo. È lì per essere tolto alla concorrenza. Chiusa parentesi. Sul piano del cittadino, del tifoso, per me, almeno questa è la mia visione, c'è una differenza abissale. Il cittadino di volta in volta è d'accordo con A, è d'accordo con B, è d'accordo con C, condivide in parte, ha delle sfumature. Il tifoso no. Una mia frase, di cui sono particolarmente orgoglioso perché fece ridere una personalità a cui tengo molto, era: per un tifoso del Milan Inzaghi non è mai in fuorigioco. Perché Inzaghi, che giocava sempre sulla linea del fuorigioco e oggi nell'epoca del VAR farebbe per me la metà dei gol che ha fatto, anche se io ammiravo moltissimo Pippo Inzaghi, dico la verità, Inzaghi era il tipico giocatore che ti metteva di fronte al fatto che se sei tifoso del Milan, ma come no, non era fuorigioco, se sei tifoso di qualunque altra squadra vedevi che era in fuorigioco. Non è questa forse appunto una metafora di com'era Berlusconi? Se tu sostenevi Berlusconi eri disposto a sostenere che vabbè, dai, le feste eleganti, il lettone di Putin, e potremmo fare tanti esempi anche di pessimo gusto, ma erano inezie, erano cose secondarie, l'evasione fiscale, avere uno stalliere che era implicato in vicende di mafia, tutte cose veniali per un tifoso che tiene quella parte e che è disposto a difendere quella parte contro l'evidenza. Naturalmente questo fenomeno è speculare per chi non è tifoso, per chi è contro quel tifo lì e magari è tifoso di qualcun altro. E allora vengo alla risposta finale. L'eredità di Berlusconi, secondo me, è pesantissima oggi. La sua mutazione antropologica ha attecchito nel territorio italiano, ha reso questo paese sempre meno lucido, sempre più disposto a credere all'ultimo che passa. Fate caso alla rapidità di certe carriere politiche e alla rapidità di certe cadute politiche, che sono impressionanti. 2, 3, 4 anni e uno che veniva idolatrato prende il 2% al giro dopo le elezioni. È una cosa che non era mai accaduta in un paese che invece votava sostanzialmente come la volta prima, con rarissime differenze. Da lì in poi con Berlusconi c'è una dinamizzazione forsennata che porta appunto a questa appartenenza, dal mio punto di vista irrazionale, di tanti cittadini che si riducono a tifosi che per la loro parte sono disposti a digerire anche i sassi, e dall'altra parte chi è contro come unico catalizzatore ha proprio quel soggetto. La sinistra in Italia non riesce a elaborare nulla di nuovo per almeno un ventennio, ma è ogni tanto almeno capace di vincere le elezioni perché di fronte c'è Berlusconi. Cioè Berlusconi riesce a rappresentare il motivo di unità dei suoi avversari. Ecco, questo per me è un cambiamento quasi irreversibile, reso peraltro ancora più difficile da combattere dall'invadenza dei social. Sì. Berlusconi ha fatto politica in una fase pre-social. Sarebbe stato curioso vedere uno della sua abilità comunicativa come avrebbe utilizzato i social. Qualcuno fa dei paralleli con Trump, che è stato anche lui molto disinvolto, in particolare nell'uso di Twitter, quando si chiamava Twitter. Ma Berlusconi, secondo me, come abilità di comunicatore era superiore a Trump, perché era più affascinante di Trump. Trump è una personalità a molti odiosa. Berlusconi riusciva a suscitare un sorriso anche in chi non l'avrebbe mai votato, e dirò di più: quando Berlusconi appariva in televisione, molti miei amici di sinistra cambiavano canale. A me capitava di restare affascinato a guardarlo, perché non condividevo nulla di quello che diceva, ma era spettacolare come lo diceva, era persino divertente, poteva farti paura il potere che aveva accumulato, ma la sua indole era un'indole bonaria, era un'indole di cui voleva essere amato da tutti, non era appunto una personalità che ti portava a fare delle irruzioni al Congresso degli Stati Uniti, come è stato appunto visto con Donald Trump. Questo tipo di similitudini io non la condivido, cioè ci sono personalità carismatiche, populiste, peroniste per certi aspetti, che ambiscono innanzitutto a essere amate. Il calcio è questo, il calcio è questo, eh. Presidente di una squadra che vince, figurati quanti ti amano. Sì, sì. Siamo davvero in chiusura di questa chiacchierata, potremmo continuare delle ore davvero, Rudy. Adesso so che un'ultima domanda, ti chiedo una risposta telegrafica, e so che la risposta, la domanda dal milione di dollari, potremmo parlare davvero dei decenni. Ecco, ma visto che tu all'epoca, insomma, non solo militavi, ma anche eri da tempo nella sinistra italiana, in quel caso a Bologna, dove sbagliò la sinistra in quel momento in cui Berlusconi entrò in campo, in cui appunto tu l'hai spiegato molto bene all'inizio, il sistema dei partiti della Prima Repubblica, insomma, si stava autodistruggendo, auto forse tra parentesi, comunque insomma stava cambiando il sistema dei partiti e il PDS in quel momento sembrava avere le porte aperte per arrivare al governo dell'Italia dopo insomma mezzo secolo di convenzio ad excludendum. Dove è stato l'errore secondo te, se riesci ad essere telegrafico? Telegrafico posso esserlo senz'altro, perché non ho la presunzione di poter dire dove si è sbagliato, cioè io ho delle opinioni, ritengo che si sia inseguito Berlusconi sul suo campo, penso a come nel 95 fu sprecata un'occasione gigantesca con il referendum sulle televisioni che avrebbero tolto un potere reale di persuasione a Berlusconi semplicemente applicando la legge. E invece ci fu una sottovalutazione drammatica della sinistra e dei suoi gruppi dirigenti, che al limite si limitavano appunto a sostenere perché i suoi film erano interrotti dalla pubblicità, ma non arrivava alle estreme conseguenze della riduzione dell'arte a merce come le TV commerciali hanno fatto. Inseguire Berlusconi da una parte, e dall'altra parte, peggio ancora, secondo me, non avere un Berlusconi di sinistra, perché questo è l'altro aspetto che posso dire clamoroso. Berlusconi ha imposto un modo di fare politica. O l'alternativa riportava la discussione, imponeva alla discussione un terreno di discussione appunto sui contenuti, per esempio le ingiustizie. Cosa sono le ingiustizie negli anni 90 in questo secolo? Si è smesso di parlare di ingiustizie. La sinistra, senza parlare delle ingiustizie, senza affrontarle, non serve assolutamente a niente. Sono capaci tutti di dire arricchitevi, e se vi arricchite individualmente tutta la società si arricchirà. È lo stesso messaggio di Reagan, lo stesso messaggio della Thatcher. Berlusconi non ha inventato niente su questo piano. Dall'altra parte però non ha trovato un oppositore che avesse un'altra idea di società, almeno questa è la mia opinione, in grado di dire non è così che ci può essere un vero progresso, anzi questo è un modo regressivo di sviluppare la società aumentando le ingiustizie. La sinistra questo non l'ha saputo fare, ma non penso che sia solo la mia opinione, purtroppo. No, proprio io almeno condivido in toto la tua riflessione. Rudy Ghedini, grazie davvero di essere stato con noi, di averci accompagnato, e leggetevi il suo blog, che davvero è meraviglioso, Rudy Ghedini, wordpress.com. A prestissimo, un abbraccio Rudy. Grazie a voi, ciao a tutti. Lei potente, io niente, eroi di mamma mia solamente. Sarei il più bel volto internazionale. in estate alle Bahamas, se non è alla Barbados, ha l'aereo personale, ma lei sa volare. E pensare quante donne al suo passare, sulle donne, quanti amori interessanti, chi le dice di no? No, no, no, no! Lei potente, io niente, eroi di mamma mia solo a me. Canzone in realtà uscì prima nel 1992, Caro Berlusconi di Cristiano Malgioglio. Banzo, devo dire qualcosa? È no, proprio necessario? Va bene, lo dirò. Allora, dillo dai, perché cioè, voglio dire, qui veramente è la summa di un sacco di cose questa canzone. Copertina spettacolare con Malgioglio, con un tizio con la maschera di Berlusconi, di gomma, per dire. Il brano che è una autocover, un rifacimento, perché è l'originale Caro Direttore dell'81, e volevo segnalare che faccio un confronto fra i testi, come di solito faccio per Italia d'altra parte. Qui comincia con Lei potente, io un niente, peraltro una canzone che si rivolge a un lei formale, una cosa poco comune, mentre l'originale iniziava con Io bilancia, lei scorpione. Però sono andato a controllare, non è autobiografico, perché il segno zodiacale di Malgioglio è il toro, pensate, è nato il 23 aprile. Quindi poi una rima spettacolare, tripla rima baciata fra cappello, vianello e menestrello, dove Malgioglio è il menestrello. Mancava solo Martufello, visto che siamo in quell'epoca. Guarda Steven, io ti ringrazio per aver detto questa frase, però purtroppo forse per Malgioglio sarebbe stata un po' un fuori tema, ecco. È un peccato perché sarebbe stato davvero straordinario. E quindi nulla, resta solo da chiedersi quali fossero le intenzioni di Malgioglio pubblicando questo brano, perché non lo so. Allora, Wikipedia definisce il brano ironico, così, en passant. Sì, non lo so. Invece i cari amici di Aurora 33 Giri dicono palesemente che secondo loro era stato scritto da Malgioglio con l'intenzione di slecchinare e di entrare così nell'orbita di Berlusconi. Poi le cose andarono diversamente, perché Malgioglio divenne una colonna del trash made in Rai, ecco. Sì, sì. Tra l'altro due cose. Innanzitutto c'è anche un'altra frase di questa canzone, verso, boh, chiamiamolo come vogliamo, eroi di mamma mia solamente, che veramente io non so cosa voglia dire. E detto ciò, lasciamo perdere Malgioglio, Banzo, e ricordare anche che in quell'anno, se non sbaglio era proprio il 92, usciva una canzone degli 883, all'epoca band giovanile, giovanilista, che era Sei uno sfigato, in cui si nominava anche Berlusconi come Tu vuoi essere Berlusconi, si diceva, insomma, una cosa così. Detto ciò, il tempo stringe, tiranno in radio, andiamo con un'altra canzone. Questa si intitola Berlusconi Shake, loro sono i Trabants. senza rivali nelle primarie repubblicane, con un distacco record su Rahul Bova, Iraq e Pakistan. La Lega continua a sostenere che ogni anno 5.000 gay lasciano l'Italia per l'Iran per godersi un assegno più sostanzioso. Tajani rileva, 60 anni fa Silvio Berlusconi era già sceso in campo nel Mar Rosso per difendere i flussi commerciali, aveva in valigia 42 kg di cibo e l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, piante dosi 6.800 grai di israeliani a Caivano per la sicurezza. Da oggi la stretta sui social è l'ennesima messa in scena, ma è una cosa seria. Il ministro San Giuliano, che scrive una cosa a favore della transizione verde, sarà operato la prossima settimana per una prostatite benigna. La Cassazione sul saluto romano, applicare la legge Scelba, ma solo su Marte. Meloni e von der Leyen di nuovo insieme in Emilia-Romagna dopo l'alluvione del maggio scorso, con una scatoletta di tonno perfettamente in linea con la tabella di marcia del PNRR. Mentre il sindaco di Cagliari, Truzzo, di Fratelli d'Italia, è già sceso in campo per mandare un segnale a Putin. Tante nuove sorprese dalla stampa inglese. 24 anni fa Berlusconi era già scappato una volta dall'Europa con un super pomodoro nano indistruttibile da fare crescere solo dopo aver provocato profondi mutamenti sociali. E sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, tante cose, tanti sono scesi in campo, no? Berlusconi addirittura 60 anni fa nel Mar Rosso. Ma anche 24 anni fa fuggì dall'Europa e non so se questa si può considerare una discesa in campo, forse sì. Comunque in entrambi i casi viene menzionato che tipo di provviste si portava con sé. In un caso abbiamo 42 kg di cibo, mentre nella fuga dall'Europa di 24 anni fa avevamo quel super pomodoro nano che, non lo so, io non l'ho mai assaggiato, quindi non mi esprimo, ecco. Ma infatti, comunque, il tempo è tiranno, lo dicevo prima in radio, ci siamo ascoltati prima un brano di questi Trabants che usciva nel 2011 quando finì l'ultimo governo Berlusconi. Ecco, io non so in che mese fu pubblicato questa canzone, ma soprattutto, questo magari non lo sai neanche tu, chi sono i Trabants, diciamolo ai nostri ascoltatori. Allora, no, invece so in che mese è stata pubblicata la canzone, apparentemente il disco è uscito il 15 febbraio del 2011, quindi era il governo. Era ancora il governo Berlusconi, perché la caduta fu a novembre, se non ricordo male, Steven. In quel momento, insomma, si parlava della nipote di Mubarak quando è uscita questa canzone, di Noemi Letizia, forse già, non mi ricordo. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Insomma, chi sono i Trabants? Sì, anche perché, scusa, un attimo, ho perso la concentrazione con questi blast from the past che mi hai sparato senza pietà. I Trabants sono un gruppo surf californiano, quindi siamo perfetto, no? Nel senso, sì. Cioè, forse non al momento giusto, perché l'epoca d'oro del surf è stata un'altra, però sicuramente nel posto giusto, perché non lo so, non puoi essere nato sul Mar Nero e fare un gruppo surf, invece se sei californiano. Oddio, si può fare, si può tutto. Però, ecco, se sei californiano, hai effettivamente una specie di lignaggio storico, anche immeritato magari, perché sei nato magari molti anni dopo. Trabants sono un gruppo guidato da Eric Penna, nella tradizione del genere ampiamente strumentali. I generi sono quelli, surf, garage, psychobilly, e lo shake in caso di Berlusconi, anche in questo caso non sapremo mai cosa li ha ispirati, perché si tratta di un brano strumentale, quindi lo scopriremo solo vivendo, no, purtroppo. No, e neanche Berlusconi ormai. Ascolta, siamo arrivati a fine puntata, ci salutiamo con l'ultimo trago, che insomma è sempre una versione di canzoni italiane ormai tradotte, interpretate in lingua spagnola. Insomma, come chiudiamo una puntata così ricca e così particolare come questa dedicata al discorso della discesa in campo e tutto quello che ha significato? Beh, vi avevamo fatto sentire all'inizio un brano che si ascoltava in quel periodo, facciamo una cosa simile, perché vi proponiamo non una cover degli anni 60-70 come succede spesso, ma una cover del 1994. Non state già cominciando a tremare, in effetti si tratta di un brano di Laura Pausini, Strani Amori, che arrivò a terza a Sanremo, se ricordo male, nel 1994 e ebbe subito un gigantesco successo anche in America Latina. Ne abbiamo trovato insieme a Fausto tantissime versioni, per lo più inascoltabili, onestamente, ma ve ne proponiamo una che inascoltabile non è, perché si tratta di un brano di Ruby o Rabbi, non so se si pronuncia all'americana, Perez, che è domenicano ed è un cantante di merengue, probabilmente all'epoca però viveva già negli Stati Uniti, perché il disco è pubblicato dalla Karen Records, che è un'etichetta di Miami, e penso si chiamasse Karen prima che Karen assumesse il significato che ha attualmente su internet, ma va bene, non perdiamoci con i meme. E la canzone nella versione di Ruby Perez si chiama Amores Extraños, quindi traduzione letterale, ed è molto più vivace dell'originale. Adesso la sentiamo. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una puntata speciale legata al Festival di Sanremo. Non vi diciamo nulla di più, sintonizzatevi venerdì prossimo dalle 5 alle 6 del pomeriggio qui su Radio Contrabbanda. Banzo, grazie di essere stato con noi, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.57 diceva tutti i venerdì: il 1994 non fu un'idea di Stefano Accorsi, come d'altronde neanche il 1992 e 1993, ma semplicemente una conseguenza del trascorrere del tempo. Ciao a tutti, buon venerdì sera. Aquellas cartas que yo recibía cuando mis